24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il rischio default della Spagna, ammesso dallo stesso governo di Mariano Rajoy. Intanto c'è incertezza sull'utilizzo dei 100 miliardi europei, ma Bruxelles ribadisce possono andare solo alle banche da ricapitalizzare. Oggi l'Eurogruppo, dopo che il Bundestag ha dato il via libera agli aiuti comunitari agli istituti di credito iberici. La Gran Bretagna muove diplomaticamente contro la Siria, anticipando l'inasprimento lunedì delle sanzioni europee, mentre in Bulgaria è allarme rosso dopo l'attentato a un gruppo di turisti israeliani. Per chiudere, raffica di pronunciamenti della Corte di Giustizia europea, novità importanti per domini internet e biglietti aerei. Questi titoli in primo piano però oggi il sì definitivo dell'Aula della Camera italiana alla ratifica del trattato sul Fiscal Compact europeo sottoscritto il 2 marzo e integralmente applicabile ai 17 stati dell'Eurozona. Il trattato entrerà in vigore il 1 gennaio 2013 se sarà ratificato da almeno 12 paesi. I sì sono stati 380, 59 no, 36 gli astenuti. Sull'orlo del default, il ministro della pubblica amministrazione spagnolo Cristobal Montoro non lesina toni apocalittici, chiedendo al congresso di Madrid di votare la nuova pesante manovra di austerità del governo di Mariano Rajoy. La Spagna non ha un soldo in cassa per pagare i servizi pubblici. Se la BCE non avesse comprato i titoli di Stato, il paese sarebbe fallito, ha detto Montoro, che ha sostituito proprio Rajoy nel discorso di fronte ai deputati. Se vuole usare in modo diverso i soldi rimanenti dei 100 miliardi messi a disposizione dell'Eurogruppo per la ricapitalizzazione delle banche, la Spagna dovrà presentare una nuova richiesta di assistenza finanziaria. Un nuovo memorandum d'intesa dovrà essere firmato e lo Euro Working Group dovrà dare il proprio via libera. E quanto indicano fonti europee sull'ipotesi che Madrid usi parte dei fondi disponibili per altri obiettivi. Ogni intervento del meccanismo antispread può essere avviato sotto richiesta del paese interessato e seguendo il processo di condizioni e linee guida definite. Lo ha ricordato Bruxelles rispondendo alla sollecitazione del Fondo Monetario Internazionale ad attivare al più presto lo scudo antispread per la Spagna e l'Italia. Non facciamo commenti a commenti, ha precisato un portavoce della Commissione europea. Il Bundestag tedesco ha approvato ieri gli aiuti a Madrid per rifinanziare le banche. Hanno votato a favore 473 parlamentari sui 583 presenti. Contrari 97, si sono astenuti in 13. Abbiamo bisogno di un effettivo organismo di controllo delle banche europee, a dirlo il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble a Berlino. Un organismo di controllo europeo dovrebbe avere poteri più ampi di quelli che attualmente ha l'EBA, ha aggiunto Schäuble. La missione della Troica Europa BCE FMI ad Atene comincerà lunedì 24 luglio, lo ha riferito il portavoce del commissario agli affari economico monetari Olli Rehn. All'inizio della prossima settimana rientrerà invece la missione della Troica da Cipro con i risultati della valutazione compiuta alla luce della richiesta di assistenza finanziaria avanzata da Nicosia. La Commissione europea è pronta a lavorare e ad agire come sempre, così la portavoce Pia Arenkilde ha risposto all'ipotesi che Bruxelles stia approntando unità di crisi estive. Siamo preparati per ogni evento, restiamo operativi e attivi per preparare le proposte che dovranno essere presentate a settembre, secondo la tabella di marcia definita, ha poi aggiunto. È dal 2011 che i servizi dell'antitrust europeo indagano sui cartelli di banche e sulle collusioni che hanno portato alla manipolazione degli indici di riferimento. A ottobre 2011 sono state fatte ispezioni per l'Euribor, ha affermato Antoine Colombani, portavoce del commissario europeo alla concorrenza Joaquin Almunia. Colombani ha precisato che riguardano compagnie che dovrebbero competere tra di loro e che si indaga anche su cartelli su prodotti derivati su valute. Eurostat ha rivisto in forte miglioramento la bilancia dei pagamenti dell'Unione Europea nel primo trimestre e il deficit è pari a 4,1 miliardi. Ora i mercati, i conti societari migliori dell'attesa hanno sostenuto i listini europei che continuano a scommettere su un ulteriore allentamento della politica monetaria negli Stati Uniti e sull'adozione di nuove misure in Cina. Sotto le stime invece i dati americani, mentre in Europa l'asta dei titoli spagnoli ha mostrato rendimenti in crescita. Milano ha chiuso in rialzo dello 0,53% nonostante lo scivolone di Telecom, -7%. Le autorità brasiliane hanno bloccato la sigla di nuovi contratti in 19 stati come sanzione per gli investimenti non effettuati. La stessa decisione è stata presa sempre in Brasile per Oi e Claro. Per contro la migliore su FTSE MIB è stata Buzzi-Unicem, +6%, in scia al buon andamento del comparto in Europa. Sempre positivo ST, +2,7%, visto visto il balzo dei tecnologici premiati dai conti di società come IBM, Intel, Qualcomm e Nokia, più 12% circa a Helsinki. Nel resto del listino le vendite hanno colpito ancora i diritti Unipol, meno 58%, e l'ordinaria e Fonsai, meno 41% nel quarto giorno dell'aumento di capitale. In rialzo invece le azioni Fonsai, più 21%, mentre Unipol ha perso il 9%. Livia Zancanera da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. Rafforzamento delle sanzioni contro la Siria e preparazione di un piano per un'eventuale crisi umanitaria. Su questo si esprimeranno i ministri degli esteri europei lunedì a Bruxelles. I 27 vorrebbero rafforzare l'embargo delle armi contro Damasco, autorizzando ispezioni di navi e aerei sospettati di violarlo. Intanto le autorità britanniche hanno congelato beni del valore di 100 milioni di sterline, oltre 120 milioni di euro, appartenenti al regime siriano e presenti nel Regno Unito. Stando alla rete BBC, la misura è stata adottata nel rispetto delle sanzioni imposte dall'Unione Europea contro 129 individui e 49 aziende siriane a causa della repressione attuata da Damasco contro le rivolte di piazza. E il giorno dopo l'attentato anti-israeliano in Bulgaria si chiarisce la dinamica dell'attacco. Tel Aviv apre la caccia ai responsabili. In servizio. Un kamikaze che aveva con sé una patente statunitense falsa, grazie alla quale è riuscito a salire su uno dei pullman dei turisti israeliani appena arrivati all'aeroporto di Burgas. Questa è la dinamica dell'attentato, secondo quanto ricostruito dal ministro bulgaro dell'interno Zvetan Zvetanov. 8 morti il bilancio dell'attacco, 6 israeliani, un bulgaro e lo stesso attentatore suicida. 31 i feriti. Israele accusa l'Iran e preannuncia una reazione dura e decisa. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore. Sentiamo ora il portavoce del governo israeliano, Avi Patzner. Ci sarà una risposta israeliana. In che modo, in che forma, in che tempo, non possiamo divulgarlo adesso, però voi potete essere assicurati che non lasceremo passare l'assassinato dei civili innocenti, che troveremo la risposta giusta verso coloro che sono responsabili di questa strage. Per mesi e mesi e mesi adesso la comunità internazionale parla con l'Iran, non ci sono nessun risultati. L'Iran continua a organizzare degli atti terroristici in tutto il mondo. Ammontano a circa 1,3 miliardi di euro i finanziamenti regionali europei 2007-2013 destinati all'Italia e finora bloccati da Bruxelles. Non è solo la Sicilia ad essere stata sottoposta al blocco dei fondi. Nella lista nera compaiono anche Calabria, Sardegna e forse ancora per poco la Campania, mentre l'Abruzzo ha ricevuto un primo avvertimento. Tra questi fondi ci sono i pagamenti interrotti dagli uffici per la politica regionale della Commissione per Sicilia, 180 milioni, Sardegna 140 milioni, per il programma Policulturali Turismo 108 milioni e per la Calabria 190 milioni. L'Italia ha 2 mesi per rispondere alle contestazioni che le sono state mosse dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione sull'unbundling. Lo ha reso noto un portavoce dell'esecutivo comunitario, confermando la messa in mora del nostro paese decisa da Bruxelles in seguito alla presunta violazione dell'indipendenza dell'AGCOM. Violazione che sarebbe stata compiuta con il varo del decreto che stabilisce come procedere per l'apertura alla concorrenza della rete fissa di Telecom Italia. E per chiudere ora il nostro notiziario, un'ampia pagina relativa alla Corte di Giustizia Europea. Ieri ha stabilito che l'Italia ha violato le norme comunitarie sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane, non rispettando i tempi stabiliti per la loro applicazione. I giudici comunitari hanno dunque dato ragione alla Commissione europea, che nel 2009 aveva avviato una procedura di infrazione contro Roma per il mancato rispetto delle norme in decine di comuni italiani con una popolazione uguale o superiore ai 15.000 abitanti. La Corte di Giustizia europea ha stabilito che i domini di primo livello.eu in internet sono riservati solo alle imprese che hanno la propria sede legale sul territorio comunitario. Una società di un paese terzo non può aggirare la legge affidandosi a un soggetto che soddisfa il criterio di presenza ma non dispone dei diritti preesistenti sul marchio. Infine, chi vende biglietti aerei su internet non può includere automaticamente nel prezzo finale del volo anche un servizio opzionale come l'assicurazione sull'annullamento del viaggio aereo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea, precisando che dare al cliente la possibilità di escludere l'assicurazione ex post, ovvero